Mi sono presentato a casa sua verso le 7:30, con una bottiglia di vino che non avrei nemmeno assaggiato e una chiavetta USB, dove avrei forse riposto il mio bottino. Mi ha aperto senza nemmeno rispondermi. Ho iniziato a sudare sul marciapiede al freddo. E poi ho deciso di salire. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Questo sì, quello no. Quello no, quello sì e questo neanche. Quando incontriamo una persona che ci piace, parte subito una specie di conta. Che cosa gli faccio vedere di me? E soprattutto, che cosa gli tengo nascosto? Non è vero che è meglio mostrarsi tutti subito. Così come non è vero, ed è pure una stupidaggine l'adagio per cui meglio mostrarsi per quello che si è. Primo, perché ognuno di noi è mille una cosa diverse. Secondo, perché non accade così. Accade che ci sono cose che ognuno di noi tiene per sé. Cose che nascondiamo perché vanno nascoste. Cose che magari poi con il tempo vengono anche fuori, ma che all'inizio di una relazione, oppure di un'amicizia, o di un lavoro anche, noi non diciamo. E credo che sia normale, anzi credo che sia proprio giusto. Perché le cose vanno così, non è la casa del Grande Fratello o lì la scuola di X Factor in cui attorno qualcuno se ne viene fuori con la vaccata del tipo «Io sono così come mi vedete, io sono vero». Allora fate così, provate a pensarci 5 minuti. Provate ad immaginare la prima volta che avete incontrato la persona che poi oggi amate, oppure il vostro capo, quello con cui lavorate adesso, e cercate di ricordare in quell'occasione qual è stata la cosa che non avete detto di voi. Non la cosa che vi siete dimenticati di dire, no, una cosa che sapevate bene, che avevate bene in testa, e che addirittura avevate quasi paura che uscisse dalla vostra bocca in maniera incontrollata. Io lo faccio, io lo ammetto. In questo momento con la persona che mi piace sto tenendo nascosto questo, il fatto che lavoro in radio. Anche se non so quanto potrò tenerlo ancora nascosto. Perché alla fine, quello che nascondiamo racconta di noi molto di più di quello che mettiamo bene in mostra. Sono le 16:09 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Il numero è sempre quello, 80024 0024 oppure 349-238-6666. Tra l'altro potreste anche farmi un piacere, ve lo memorizzate così non è che ogni volta Radio 24 tel, Radio 24 cell, no? Vabbè, così non si capisce, Bonini mi guarda come un imbecille, c'ha pure ragione. 80024 0024, provate a ricordare la volta in cui avete incontrato un vostro fidanzato, non per forza quello di adesso, o una vostra fidanzata, non per forza l'attuale, così come non per forza l'attuale datore di lavoro, ma magari quello con cui avete lavorato anni fa. Avete fatto un colloquio, se era un datore di lavoro, avete fatto una cena, un aperitivo, un incontro, se era una persona che volevate conoscere. C'è stato qualcosa che non gli avete detto, Tipo che avevate un figlio, che magari non era il caso di farglielo sapere subito. Oppure se era un lavoro, se era un colloquio di lavoro e presupponeva che andaste in giro in automobile, che non avevate la patente, perché magari l'avevate fatta, o l'avreste fatta. Ad esempio, sarà un colloquio in cui era necessario parlare inglese e voi, ecco, non lo parlavate l'inglese, però non gliel'avete detto. Oppure che vivevate a 500 km di distanza dal posto in cui lavoravate, ma certo, sono disponibile anche da domani a cominciare a lavorare. Oppure avevate i dreads, ma non l'avete detto perché li avete nascosti sotto un cappello e eravate pronti a tagliarli. Quello che avete tenuto per voi in un'occasione importante, di un incontro importante. 80024 0024 349-238-6666. Perché tutto ciò? Perché continua quello che vi ho raccontato ieri. Continua la storia di un nuovo personaggio. Una donna nuova, che è apparsa quasi dal nulla. Che è venuta fuori su Facebook, al viso di una donna di Milo Manara, e si chiama Michela Pesca. Andate a cercarla su Facebook, perché Michela Pesca c'è, al viso di una donna coi riccioli, e lì dietro si nasconde un personaggio. Michela Pesca di Facebook ha 46 amici. Ora, sono le 16:12 minuti di giovedì 2 dicembre del 2010. Vogliamo che da qui alla fine della trasmissione Michela Pesca non abbia almeno 100 amici? Almeno 100, ok? Chiediamo l'amicizia. E poi soprattutto, Ho bisogno di capire che cosa deve scrivere Michela Pesca sulla sua bacheca per poter fare colpo su chi sapete voi. Tra l'altro ho il profilo aperto ed era inaspettatamente aperta anche la chat e mi scrive subito: ciao, allora hai scoperto come ci si sente essere puntati da un uomo? Sì, guarda Rosario, lo so, mi sento esattamente come in questo momento che mi hai aperto la chat così all'improvviso. Aspetta, facciamo così, prima di cominciare con il racconto di quello che è accaduto ieri da Arianna, io scrivo subito un bel post, una roba che potrebbe scrivere Michela Pesca, una roba che, sul Natale ad esempio, tipo: aria di Natale oggi qui a Milano, addobbo l'albero, meglio palle o le luci, voilà, ci siamo quasi, condividi, perfetto. Michela Pesca è su Facebook, andate a vederla e chiedetela l'amicizia. Da qui alla fine, almeno 100 amici, mi raccomando. Non vi preoccupate, Michela Pesca ce n'è solo una. Spero che ce ne sia solo una e spero non ci sia una che è tartassata in questo momento dai messaggi degli ascoltatori. Insomma, tutta questa operazione continua oggi, ma è partita qualche giorno fa e ieri sera ha avuto il suo apice. Arianna è alta, bionda, sempre abbronzata, sorridente e piena di fotografie di quando va al mare. Me l'ha fatta vedere quando ero a casa sua, nel periodo in cui abbiamo avuto una breve relazione. Arianna mi aiuterà a smascherare quel birbante di Italo, come direbbe mia nonna. Ecco, questo è quello che ho pensato ieri, quando l'ho chiamata, le ho telefonato per chiederle una mano per completare il profilo Facebook di lei, di Michela Pesca, che poi è la persona che capirà e che carpirà i segreti di Italo, quello che sta con la donna della mia vita. Ammetto che chiamare Arianna non è stato facile, eh? Siamo rimasti in ottimi rapporti dopo che lei aveva deciso di troncare perché voleva restare come suo fidanzato, però non è stato facile. Ero comunque certo che mi avrebbe risposto con un sorriso, e infatti ha fatto così. Ho pensato che fosse fin troppo quando mi ha detto: ciao Matteo, sapevo che mi avresti richiamato. Il fatto è che le donne sono dei dispositivi complessi, io ho rinunciato a comprendere cosa giri nella loro mente. Ieri però qualcosa nella sua voce non mi convinceva. Cioè, io ero stato per lei una specie di avventura extraconiugale, una cosa simile, e mi aveva scaricato senza che io soffrissi poi così tanto. Però la voce languida che sentivo dall'altra parte della cornetta non era quella che mi aspettavo. Mi sarei immaginato un tono sorpreso, che so, al massimo un po' imbarazzato. Insomma, comunque sereno e sorridente, no? Come nel suo carattere. Io le ho detto subito che la chiamavo per un favore e quindi ho chiarito in maniera inequivocabile con le parole: guarda Arianna, mi sono innamorato di una donna. Ma lei non mi ha lasciato finire, mi ha improvvisamente invitato a cena con un tono di voce molto profondo. Io sono entrato in un grandissimo imbarazzo, ho capito che non era il caso di chiederle subito le foto del mare per il mio finto profilo Facebook. D'altronde ero a corto di idee e avevo molta fretta, quindi ho pensato che avrei potuto farle la domanda durante la cena. E ho detto di sì. Ora, come io riesca a cacciarmi in situazioni compromettenti anche senza volerlo, ammetto, mi è misterioso. Cioè, lo sapevo che non era una grande idea accettare l'invito, e le chiesi quindi come stava il suo fidanzato, che tra l'altro è anche il suo convivente, e lei mi ha risposto che lui stava benissimo. Stava a Lione, dove vive per lavoro, dal lunedì al venerdì, e che erano felici, e che avevano raggiunto un equilibrio di cui lei era molto fiera, e la faceva stare molto bene. In sottofondo nella cornetta sentivo della musica classica, e sembrava stesse sorseggiando del tè o del vino rosso, forse era la mia testa che mi faceva pensare così. Al contrario di come potrebbe sembrare, Arianna è una persona abbastanza passionale. Nell'accettare l'invito di ieri sapevo che avrei corso dei rischi, però il mio innamoramento mi rendeva invulnerabile a qualsiasi tentazione e il mio bisogno di fotografie mi avrebbe portato ovunque. Certo, il suo tono era piuttosto seducente e non ero sicuro che avrebbe consentito darmi le foto se non a un certo prezzo. Mi sono presentato a casa sua verso le 7:30, con una bottiglia di vino che non avrei nemmeno assaggiato e una chiavetta USB dove avrei forse riposto il mio bottino. Mi ha aperto senza nemmeno rispondermi. Io ho iniziato a sudare sul marciapiede al freddo e poi ho deciso di salire. Arianna mi ha lasciato la porta socchiusa, perché lei è molto attenta ai particolari. Poi mi ha aspettato in cucina con un grosso calice di vino in mano, vuoto. Grazie Matteo, mi ha detto porgendomelo, obbligandomi così con quel gesto a cercare il cavatappi, cercare di stappare la bottiglia e cercare di versargliene un po'. Ammetto, non posso dire che sulle prime mi abbia lasciato indifferente. Ho proceduto con dei convenevoli molto amicali, tipo dei rapidi baci sulle guance e un tono di voce stile stadio, no? Per rendere meno romantico possibile l'ambiente che lei aveva preparato. Poi sono andato in bagno, mi sono rifugiato lì, a lavarmi le mani. Ho alzato la testa e mi sono guardato allo specchio come John Travolta in Pulp Fiction, quando è in casa di Uma Thurman. E mi sono detto, Matteo, ok, tu sei qui per una missione molto precisa. Stai tranquillo e non succederà niente. Devo dire che vedere la settimana enigmistica appoggiata di fianco alla carta igienica mi ha molto aiutato. Tutta la poesia lì era finita ed ero tornato un eroe senza macchia e senza paura. Ma, dall'altra parte della casa, Arianna era molto agguerrita e mi sono reso conto che non avrei potuto chiederle realisticamente le sue foto così pronti via. E lì mi sono ricordato che il mio cellulare ha una fotocamera e che forse poteva essere sufficiente quella. Quando sono uscito dal bagno l'ho trovata seduta sul divano. Sapevo che volevi chiarire un po' le cose, mi ha detto. Io ho preso la palla al balzo e le ho detto che mi sembrava una fotomodella, che era in grande forma, e ho fatto finta di scattarle una foto con una macchina invisibile, solo con le dita. Lei si è messa a ridere, io allora lì ho tirato fuori il cellulare e ho proseguito il gioco, perché tra l'altro il telefono quando scatta le immagini fa quel rumore classico, quello della reflex, il click, e rendeva la cosa più realistica. E intanto la ammortalavo sul divano dicendole spostati così, mettiti cos'ha, e lei stava allo scherzo facendo un po' la vergognosa o mettendosi in posa la modella. Perfetto, avevo il bottino. Solo che poi lei si è alzata e mi ha detto che anche io ero in forma e si è avvicinata mentre lo spezzatino sul fuoco cuoceva ed emanava un profumo fortissimo. Allora io ho schiacciato il tasto che solo io conoscevo, quello che fa squillare il mio stesso telefono come fosse indemoniato. L'ho osservato un po', poi ho guardato lei e le ho detto scusa, è mia mamma, così, per giustificare il fatto che dovesse rispondere. Lei non ha cambiato espressione. Io ho iniziato a parlare, mi sono inventato una telefonata di richiesta d'aiuto per un incidente domestico, una roba tipo una caduta, che se non l'avessi fatto a scuola di recitazione non avrei mai potuto renderla credibile. Ho mostrato una faccia da cane bastonato, le ho detto che ero molto preoccupato e quindi scusami, ma preferisco andare subito a Romentino per capire cosa è successo. Non le ho nemmeno lasciato il tempo di chiedermi quando ci saremmo rivisti e sono praticamente fuggito. Sono arrivato a casa che erano circa le 11. Ho collegato il computer al cellulare e ho scaricato le foto. Ce n'erano alcune mosse, altre in cui Arianna sembrava un leone marino spiaggiato e altre in cui sembrava meravigliosamente misteriosa. Ho aperto il mio account su Facebook, Michela Pesca, e sono andato nella cartella carica foto. E in quel momento lì, in casa mia, è andata via la luce. Ho sentito il vicino di casa che inciampava in qualcosa e poi un allarme nell'appartamento di sopra che partiva. Per un attimo ho temuto che fosse stata colpa mia, tipo che avessi creato qualche sovraccarico di energia dovuto alla lavatrice, alla radio, alla lampada e al computer accesi tutti insieme. Poi invece ho pensato che si trattava di un castigo divino per quello che stavo facendo, che era indegno, che era mediocre e forse era pure illegale. Ho aspettato al buio che tornasse la luce. Qualcuno negli appartamenti vicino deve essersi messo un paio di scarpe, infilato un cappotto e deve essere sceso in cantina a tirare sull'interruttore generale che era saltato. La luce è tornata come torna la luce dopo un blackout, di botto, senza darti la possibilità di abituarti. Io ho alzato la testa e mi sono visto riflesso nella finestra, di fronte a me. Avevo la faccia di un cretino che vuole usare la foto di una sua amica per crearsi un profilo falso. Ho chiuso il computer e mi sono sentito meglio. E non perché le cose che non si devono fare non vanno fatte. No, perché fortunatamente qualche dubbio mi viene ancora. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne. n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. 800240024 349-238-6666. Leggo un solo messaggio. Caccia, a Brescia si dice te pompa che me sbrofe. È chiaro che ho bisogno di sapere che cosa significa, altrimenti non l'avrei letto. Ringrazio invece tutti quelli che stanno intervenendo sul profilo di Michela Pesca. Allora, devo dire che mi date grande soddisfazione quando fate così, perché ho chiesto di arrivare almeno a 100 amici e ne aveva già 40 Michela Pesca. Sono arrivate 147 richieste d'amicizia, pronti via. E poi anche grazie per il consiglio, perché Michela oggi vuole addobbare l'albero, giusto? E dice meglio palle o luci. Daniele scrive palle, Gian scrive è troppo presto, Giulia sono per il presepe, Max luci. No, però ragazzi, non mi dovete scrivere Matteo sul profilo di Michela Pesca, altrimenti salta tutto. Non avete capito proprio niente. Un'amica mi ha detto che una sua amica ci appenderà arance seccate nel forno. Benissimo, non vedevo l'ora. Adesso poi scrivo un altro post, che Michela Pesca secondo me oggi è calda e ha voglia di scrivere. 800240024 349-238-6666. Se avete tenuto nascosto di proposito una cosa, la prima volta avete incontrato il vostro fidanzato, il vostro marito, il vostro datore di lavoro, dopo la borsa, io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto siamo al lago, anzi siamo su un lungo lago, proprio incorniciata, si vede che è una foto fatta da qualcuno che ne sa e che vuol far capire che ne sa. Ci sono due piante che fanno quasi da quinta ai lati, due panchine che guardano il lago e una vespa, una vecchia vespa, credo che sia un ET4 primavera, tipo color argento, con due caschi appesi, quindi è una foto molto romantica. Il lago potrebbe essere qualsiasi lago d'Italia, o estero, no, però è Italia chiaramente, perché la vespa è targata italiana, quindi siamo in Italia. Però così, a naso, dalla tristezza, potrebbe essere un lago, tipo un lago stretto, un lago cupo, tipo il lago d'Orta. Alessandra Botti, 27 anni. Ciao Matteo, oggi vorrei essere nella tranquillità di Montisola, l'isola lacustre più grande d'Europa. Mentalmente oggi io sono qui. Montisola, lago d'Iseo, ce l'ho. Il lago d'Iseo non è così lontano dal lago d'Orta in quanto a sapori, ancora nessuno a proposito del lago d'Iseo mi ha detto che cosa voglia dire te pompa che me sbrofe in bresciano, e io continuo a chiederlo ancora. Poi invece, ciao Matteo, non ho mai detto alla mia ragazza che l'ho tradita dopo un mese, adesso siamo sposati e aspettiamo un bambino. Vabbè, però dopo un mese, quindi già non vale, cioè la prima volta ci sono cose che non ho mai detto a nessuno, oppure che ho detto talmente a tutti e così chiaramente che nessuno mi ha mai creduto. Firmato El Barrero. Vorrei vederti El Barrero, guarda. Mi stai già simpatico. Ciao Matteo, ma Michela Pesca esiste veramente? Io la conosco bene. Allora, adesso, se vogliamo scherzare, bene. Tra l'altro Michela Pesca ha scritto un altro post sulla sua bacheca, che è: uff, oggi non ho voglia di fare niente, voi cosa state facendo? E già Gian scrive ascolto la borsa, Elio scrive ascolto la D24 su internet. Ragazzi, però una cosa che ho chiesto, cioè non mettete riferimenti a me, altrimenti siamo da capo. Tra l'altro le richieste d'amicizia sono salite, sono 147, continuate a chiedere amicizia a Michela Pesca, perché per essere credibile uno deve averci quanti? 300 amici almeno. La media è, dice Tiziano, 180-200. Ok, perfetto. Quindi già cioè Michela Pesca già più o meno c'è. Andiamo però a sentire qualcuno che invece non ha raccontato realmente delle cose, e andiamo per l'esattezza a Roma da Massimo. Pronto Massimo? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, molto bene. Tu che cosa hai tenuto nascosto e a chi? Dunque, ho tenuto nascosto la mia moglie attuale, l'unica, e semplicemente quello che facevo, perché se no c'era un approccio impossibile. Cioè? La situazione è questa, cioè siamo a luglio, questo succede da circa 15 anni fa, a luglio, praticamente giornata estiva, con nuvole e via dicendo, quindi motivo per andare in piscina a zero, 6:30, 7 di sera. Vado e incontro due persone dentro la piscina, una un mio amico con cui giocava a tennis e via dicendo, un'altra la mia attuale moglie, ovviamente lui vicino all'unica persona e non soprattutto donna in questo clima surreale. Sì. Ovviamente io mi metto vicino, cerco di attaccare il bottone per ovvi motivi, per conoscerla. Sì. E stavano animosamente, perché lei è psicologa, lui neurologo, quindi c'è questa diatriba eterna. Chiaro, tra chi si occupa del cervello e della psiche. Io, sì. Ovvio, io ovviamente li lascio sfogare ben bene tra di loro, ovviamente dando degli occhiataccio al mio amico nel momento in cui cercava di introdurmi in maniera... Massimo, promettimi che arriviamo al punto, vero? Perché io mi sto perdendo. Al punto, dunque. Okay. Allora, la situazione è questa, ecco, per arrivare al punto. Che facendo il medico anch'io di altra natura... Lei dopo questo discorso fa: ma tu che lavoro fai? Perché lei ce l'ha a morte con i medici. Ok, ok, tu cosa l'hai detto? L'architetto, ovviamente. E per quanto l'hai tenuta sta roba? Ma 8 giorni, diciamo. La cosa più difficile è stata appena l'ho accompagnata a casa. Quindi c'ho il contrassegno, sì, in macchina. E quindi l'ho dovuto nascondere con fare... Ah certo, il simbolo dei medici, quello con, ovvio, la croce. Poi quando, ovvio, lei ti ha chiesto di rifargli il disegno di casa sua, ti hai svelato che eri un medico. No, però facevo il designer, capito? Per cui era abbastanza facile tenere nascosto per i 7-8 giorni. Okay. Poi, no, alla fine, insomma, ce l'hai fatto. Eccessivo. Adesso va bene il matrimonio, Massimo, tutto a posto. Sì, sì, sì, procede, procede, ancora la grande. Massimo, grazie mille, buona giornata. Ok, ciao. Ciao, alla prossima. Ciao. Pare che sia arrivato, che cosa vuol dire il detto bresciano? È un detto che vuol dire sta esagerando. E diventi pesante. Ah, ok, perfetto. In realtà, e questa è proprio la rilettura, no? La traduzione era un'altra. Andiamo da Roma, da Massimo. Pronto, Massimo? Ah, Massimo l'abbiamo, scusami, è già sparito. Giuseppe da Catania. Giuseppe, sì, da Catania. Sono io. Ciao, ciao, Giuseppe. Ciao. Raccontami anche tu, a chi l'hai tenuto nascosto? Non parliamo d'amore qui. Io l'ho tenuto nascosto al mio vecchio datore di lavoro. Che cosa? È che non sapevo una parola d'inglese, nonostante, o meglio, non è che non sapessi una parola d'inglese, diciamo che non avevo la conoscenza dell'inglese che mi era richiesta quando ho risposto all'annuncio di lavoro, nonostante questo annuncio fosse in inglese, quindi proprio l'ho fatta veramente grossa. Ma scusami, non ho capito, il colloquio l'hai fatto in inglese? Il colloquio io l'ho fatto un po' in italiano e un po' in inglese, quindi qualche parola gliel'ho detta. Ma tipo hi? Hi, hello, mi presento, quello che ho studiato, con una pronuncia assolutamente catanese, catanese. Catanese, come immagino si senta anche alla radio. Ma dimmi però una frase che gli hai detto in inglese che sapevi, Giuseppe. No, questo non mi ricordo che gli ho detto che avevo studiato scienze della comunicazione e che avevo fatto un master fuori a Pisa, e gliel'ho detto in inglese. Ma questo era vero? Come gliel'ho detto non lo so, sinceramente. Giuseppe, però è andato bene, ma la cosa che mi ha stupito, infatti, sì, sinceramente non capisco come poi abbia fatto lui a scegliermi tra i diversi... La cosa che mi ha stupito è che anche dopo, quando ho cominciato a fare questo lavoro che poi ho lasciato, sì, ma ho lasciato per scelta mia, non perché abbiano scoperto che non sapevo una parola d'inglese, tutto sommato devo dire che poi non l'ho utilizzato l'inglese. Senti, Giuseppe, dimmi che lavoro era, che non ho ancora capito di cosa si trattava. Allora, io lavoravo in questa azienda che si occupava di creare corsi di formazione, sai, corsi di formazione continua, quelli per medici, per avvocati. Sì, ho capito. Esatto, ho capito perfettamente. Pure online, quindi perdonami, Giuseppe, aspetta un secondo, Giuseppe, è chiaro, cioè, e poi ti saluto, era già un po' di fuffa, per di più online, quindi è il top del top, però... Il top, però sai, Giuseppe, ero appena lavorato. Era il primo lavoro. Grazie mille, Giuseppe, ciao, buona giornata. Ciao. La prima volta che sono uscita con mio marito, Alessio, non gli ho detto che convivevo già con un uomo, e allora noi non potevamo fare a meno di chiamarla. Pronto, Chiara? Sì. Ciao, sì. Ma no, non è né mio marito né si chiama Alessio. Ah, ok, perfetto. Allora eravate in due che facevate la stessa cosa. Mi sa di sì, ma più di due forse. Cioè? Raccontami l'occasione. Ma l'occasione, io mi sono segnata a un corso d'inglese. Mm? E appena l'ho visto ho capito che la bugia ci sarebbe sicuramente scappata, perché comunque chiedeva di presentarci, dove vivevamo, con chi, insomma, cose così. E io gli ho detto che vivevo col mio cane. In realtà insieme a me e al mio cane c'era anche il mio, quello che ora è il mio ex. Ma e adesso tu stai con quella persona invece, quella a cui... Certo, hai detto... sì, finalmente. È stata una bugia bellissima, infatti. Sì, però poi come ne sei uscita da questa bugia? Beh, è durata un mese questa bugia, è durata tanto, perché io mi dispiaceva di che comunque avevo già un altro, perché avrei fatto una cattiva impressione subito. Cioè questa... Invece così hai fatto una figura magnifica. Senti, quanto ci hai messo a chiudere la cosa? No, la cosa l'ho chiusa alla svelta, nel senso che comunque era già finita, insomma, era una cosa proprio piena di muffa. Ah, ok. Il problema è che mi dispiaceva di che avevo detto questa bugia enorme, perché mi mettevo subito in una luce pessima. In una luce cattiva, abbiamo capito, Chiara. Ti dispiaceva farti vedere in una cattiva luce. Mi raccomando, Chiara, se hai un profilo Facebook, diventa amica di Michela Pesca. Ti d'accordo. Saluto, un abbraccio, grazie, ciao, grazie. Ciao. Prima poi è arrivato... Tra l'altro arrivano altri messaggi a proposito di che cosa, date consigli su che cosa fare a Michela Pesca. Alessandro scrive: aspetto Utrecht-Napoli. Ora Alessandro, Michela Pesca non è che può passare il tempo aspettando di vedere il Napoli. Prima è arrivato questo messaggio invece, il messaggio diceva così: io ho tenuto nascosto che avevo fatto 2 anni di carcere, fai te il motivo. Pronto? Pronto? Ciao, buongiorno. Ciao, ciao. Senti, chiaramente io ti do un nome anonimo, facciamo che ti chiamo Paolo, ok? Sì, va bene, Paolo come nome. È meglio. Allora, è meglio così, direi, anche perché questa cosa ancora lei non la sa. Purtroppo perché adesso sta diventando un problema, lei vuole frequentare il mio paese, dalle mie parti, e qui nasce il problema. Senti, per ma fortuna, Paolo, siamo un po' lontani, ecco. Senti Paolo, ma se si può chiedere, e si può chiedere perché semplicemente lo faccio, se si può rispondere al massimo, sì. Tu che cosa hai fatto per finire in carcere e quanto c'eri rimasto in carcere? Io ho fatto una rapina. Ok. Ho preso quasi 4 anni, ho fatto 2 anni, poi ho metà pena. Sono uscito per i servizi sociali, ecco. Ok, perfetto. E adesso sei uscito da quanto? Appena sarà un anno e qualcosa che ho finito tutto. E poi in chat ho conosciuto sta ragazza, però il paese è piccolo, la gente è mormo, il problema esiste, insomma. Immagino. Senti, ma fino adesso quante volte l'avrai incontrata? C'è un bel po', perché io vado là a fare il weekend a casa sua. Ah, ma quindi, scusami, Paolo, quindi voi state insieme proprio? Sì, proprio quasi conviviamo, diciamo. Scusami, l'ultima cosa e poi ti saluto. Sì. È veramente un problema dirglielo? Il problema sì, perché non sa, io purtroppo ci tengo questa ragazza, è una brava ragazza. Ma l'ho capito, e tu dai per scontato che se glielo dicessi lei non vorrebbe più stare con te? Sì, anche perché mi è già capitato durante i servizi sociali, mi sono sentito dire di quelle cose che proprio, mamma mia, è bruttissimo. Però Paolo, tu adesso sei tranquillo, sei fuori, cosa fai, lavori, no? Sì, lavoro, tranquillo. Secondo me questa ragazza ha delle risorse nascoste. Speriamo. Paolo, magari speriamo. Ci risentiamo, e mi fai sapere com'è andata. Va bene, senz'altro. Grazie mille, stai bene. Ciao, grazie. È arrivata questa mail prima di chiudere, è arrivata ieri sera. Luisella. Ogni tanto ascolto la tua trasmissione quando mi trovo in macchina e oggi ho deciso di cliccare su Facebook. La storia di Michela mi ha incuriosito, ma stai facendo sul serio? Esiste veramente Italo, eccetera, eccetera, eccetera? Ma che cosa sta succedendo? È un programma, sono sveglia, sono desta. Comunque, la tua voce mi piace. Ora che vedo la foto, sei pure molto, molto giovane. Credo fossi più maturo. Invece, buon per te che sei giovane. Luisella, ho 35 anni. Non mi sembro così giovane. Michela Pesca, invece, che è su Facebook, ne ha 25. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi, dove siete?